la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Calda giornata d'agosto del 1979. Gian Piero Beltotto è un giovane giornalista di Avvenire. In redazione fa caldo e le idee sembrano farsi pigre. Gian Piero pensa a qualcosa da proporre, rimbomba in lui un'idea che riguarda il silenzio. Io lavoravo allora al quotidiano Avvenire. Era un'estate in cui non stava succedendo assolutamente niente, anche perché in quegli anni si faceva molto meno pettegolezzo sui giornali e quindi le cose di cui raccontare erano molto più limitate. E mi venne in mente di fare un giro per le clausure italiane e ne feci un giro di 4-5 conventi, riportando le consuete 4-5 pagine di appunti per convento, tranne che in quello di Vitorchiano, dove avevo riempito praticamente un blocco notes. Ne parlai con mio amico Giovanni Riva, che allora era l'ideatore, il fondatore di una piccola ma bellissima casa editrice che si chiamava Città Armoniosa e stava a Reggio Emilia, e poi col mio amico Giovanni Testori. Tutti e due furono d'accordo e scrissi il libro. Lei si ricorda perché quel convento in particolare raccolse la sua attenzione? Perché scrisse così tanto di quel convento? Cosa accadde lì la prima volta che entrò e poi dopo? Perché fui messo quasi con ferocia di fronte a una esperienza assolutamente straordinaria e unica, in cui un gruppo di donne viveva insieme, lavorava assieme, ci manteneva, metteva in pratica quello che in quegli anni si andava ideologizzando a proposito dell'autogestione femminile, e tutto questo lo faceva nel nome di una relazione assoluta con l'assoluto. Beltotto era entrato nel cuore del silenzio e aveva visto in faccia le monache di clausura. Aveva parlato per ore con loro, una ad una. Aveva dormito in una stanzetta all'interno del convento. Aveva respirato quell'odore di buono che hanno gli spazi attraversati da chi cerca davvero risposte nella vita. Io formulavo le domande e loro mi davano le risposte. Poi io andavo nella mia cameretta, dove avevo una macchina per scrivere, e scrivevo. Di tutte le storie che ha raccolto, ce n'è stata una che l'ha emozionata o l'ha veramente colpita? Beh, certamente quando loro parlano della maternità, quando loro parlano della castità, la maternità è certamente la maternità fisiologica, cioè la maternità, il fatto di rinunciare ad avere un figlio proprio, non lo teorizzano come un fatto naturale, è innaturale non avere un figlio proprio. Ma hanno la consapevolezza del perché la Chiesa chiede loro questo sacrificio, che è tale. Una mi ricordo che disse, ed è bene saperlo, perché se no diventi vecchia, diventi bisbetica e non sai nemmeno perché. E qual è la ragione? La ragione è la visione di una maternità molto più grande. Io quando parlo con loro, ancora adesso che stiamo ragionando su un altro libro che stiamo scrivendo, eccetera, eccetera, mi rivolgo a loro chiamandole madre. Magari sono anche più piccole di me, ma sicuramente le avverto come tali. Credo che per loro questo sia il senso e il segno di un cammino. Umano, certo. Un cammino umano. Senta, è vero che questa è una domanda che mi hanno chiesto di farle. È vera la leggenda che in clausura vanno anche le donne che hanno peccato molto in una vita, diciamo, precedente? Ma speriamo di sì. Nel senso che come loro non si stancano mai di dire, la clausura è un luogo di ampia libertà. Se non sei davvero libero, è difficile scegliere una vita così particolare. Non credo che la clausura, ma come tutto il cristianesimo, sia fatto per persone probe e rette. Il cristianesimo è fatto per gente che molto pecca come me e come loro. Un oceano di silenzio scorre lento, senza centro né principio. Alla fine dell'agosto del 1979, Giampiero Beltotto, 25enne, giornalista di Avvenire, decide di pubblicare il libro che racconta questa esperienza unica, assoluta. Il caso vuole che un piccolo editore si interessi alla storia. Nasce così il libro Ho intervistato il silenzio. Sarà un caso letterario. Illumina i miei pensieri neri. La prima volta. First I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Siamo alla fine degli anni 70. Gloria Gaynor con I Will Survive resta in vetta alle classifiche mondiali per mesi. È il 1978, lo stesso anno che segnerà profondamente la storia del nostro paese, dando una direzione opposta a quella che poteva prendere. Ecco, vedo Paolo Freiese, che è uno dei nostri colleghi che è andato sul posto. Sta arrivando le immagini che abbiamo ripreso al Trionfale. Lì a Via Stresa, sì. E sono 4 i morti, sono lì, 2 nella macchina, nella prima automobile. Sta arrivando? Scusate, ah, l'audio. Aspetta. Sì? Possiamo dare la partenza? Sì, allora è pronto il tuo servizio. Sì, adesso vediamo il primo servizio sul rapimento di Moro avvenuto un'ora fa. Il 9 maggio dello stesso anno viene ritrovato il corpo senza vita di Aldo Moro. Gli italiani appresero così la notizia. Il corpo di un uomo è stato trovato in una macchina in via Caetani. Caetani è nel cuore di Roma, vicino a vie delle botteghe oscure, a pochi passi dalla sede del Partito Comunista, a un centinaio di metri dalla sede della Democrazia Cristiana, quella sede in cui per 54 giorni i dirigenti sono rimasti sempre riuniti per aspettare una notizia che si presumeva, grazie a Brizzo, una notizia che si presumeva meno tragica di adesso. Dunque vi do le ultime notizie, dicono funzionari di polizia, ecco, è arrivata la conferma, l'uomo morto è Moro. Si trovava nei pressi di via delle botteghe oscure in una R4 rossa. Giampiero Beltotto è un giovane giornalista di Avvenire che decide di entrare a modo suo nella storia italiana, nella storia di un paese profondamente ferito, segnato dalla violenza che attraversò l'Italia sul finire degli anni 70. I cosiddetti anni di piombo avevano creato un senso di paura e diffidenza. Beltotto decide di cercare fiducia, calore, amore, laddove forse nessuno sarebbe andato. Va a intervistare le monache di clausura e si ritrova tra le mani materiale meraviglioso, di un'intensità totale, che non poteva restare chiuso in un block notes, doveva essere condiviso. Il libro divenne un caso letterario. Fu effettivamente un grande successo editoriale. Credo anche dovuto all'attenzione che alcune personalità eminenti della cultura italiana ebbero per quella pubblicazione, mi vengono in mente Giovanni Testori, Geno Pampaloni, Zavoli, Mario Pomilio, Carlo Bo, e scrissero un po' tutti di questa piccola poi pubblicazione, e quindi questo certamente suscitò un certo interesse. Nel 1979 non c'era internet, la televisione era ancora praticamente in bianco e nero, e non c'era il vezzo di portare gli scrittori e gli autori in televisione, il che dà ovviamente una possibilità di pubblicizzazione molto superiore di quella che c'era allora. Quindi il fatto che comunque vendesse è indizio di un forte interesse, perché allora 25.000 copie sono davvero, rappresentavano davvero una quota da Everest conquistato. Perché? Immagino perché in un periodo così plumbeo della storia italiana fu una rasoiata di luce. Silenzio che avverte in quelle giornate in cui viene ospitato nel convento di clausura sarà il tema di tutta una vita. Sarà una prima volta per il giovane giornalista che lo segnerà in profondità, tanto da tornare a distanza di 30 anni da quella prima volta a rivedere quei luoghi e a parlare con quelle stesse donne che 30 anni prima erano state ragazze che avevano scelto nella clausura una strada di ricerca interiore. Dai nuovi incontri nascono idee rivoluzionarie, come quelle di portare in chat le suore. Questa è una delle voci che appartiene a quel mondo. Chi l'avrebbe mai immaginato che da un monastero di clausura, sì, uno di quei posti antichi, un po' misteriosi, austeri, con le grate, dove da lontano si sentono le voci angeliche che cantano le lodi di Dio, oggi attraverso internet io e te ci saremmo voluti incontrare. Che scherzi che fa il Signore. Certamente io a 23 anni, dopo una laurea in giurisprudenza, ho deciso di giocare tutta la mia vita con Lui. Senza compromessi, senza troppi calcoli, senza ragionamenti. Chissà, forse conoscendomi ti starai dicendo, beata te, fortunata te che hai trovato la felicità, ma io, tutto così lontano da me. E non pensi che anch'io fossi come te, che anch'io ho avuto l'inizio? Le ho convinte a fare questo passaggio, naturalmente dando alcune regole, perché la loro vita poi è una vita di contemplazione, di silenzio, e quindi anche nella richiesta bisogna essere discreti. Ho trovato la disponibilità loro e della madre badessa a utilizzare questa piattaforma tecnologica, perché più direttamente, senza mediazioni, si avvicinino alle domande che fanno le persone, perché le persone hanno bisogno di esperienze così. La gente non ha bisogno di andare nei luoghi della contemplazione orientaleggiante, basta girare l'angolo, è vicino casa ed è molto simile a noi e alla nostra cultura. E cosa chiedono le persone in queste chat? Ah, ho visto una domanda in particolare a cui loro, alcune domande divertenti, quella che mi è venuta in mente adesso non me la ricordo bene, quindi non voglio formularla male. Ma chiedono un po' di tutto, soprattutto il quotidiano, quindi come vivono la vita quotidiana, e poi naturalmente il senso della vita, della morte e di quello che sta succedendo, perché siamo così poco abituati a far silenzio dentro che anche dare spiegazioni a se stessi delle cose difficili che ci troviamo ad affrontare è sempre più complicato. Senta, Beltotto, lei può dire che questa esperienza le ha cambiato la vita, cioè che quella prima volta in cui ha deciso così in una giornata calda nella redazione di Avvenire di intrufolarsi nelle stanze della clausura le ha cambiato la vita in qualche modo, che delle scelte così minime influenzano poi le scelte più grandi di una vita intera? Assolutamente sì. È stata all'epoca di suo un'esperienza di relazione importante e profonda, che poi mi sono portato per anni, perché poi abbiamo continuato a scriverci in privato. E devo dire che la vita che è passata e le difficoltà che sono arrivate mi hanno sempre trovato convinto che c'era comunque un luogo dove venivo accolto per quello che ero e non per l'immagine che di me volevo dare. 1, 2, 3. If you close the door, the night could last forever. La prima volta termina qui. Ci risentiamo domenica prossima, sempre dopo il GR delle 13. Se volete riascoltarci, andate sul sito di Radio 24 e cercate la pagina del nostro programma. Potete scriverci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Buona giornata a tutti, da Cristina Carpinelli. The door, I'd never have to see the day again. If you close the door, the night could last forever. Leave the wine glass out and drink a toast to never. Oh, someday I know someone will look into my eyes and say hello.